parliamo del rapporto tra musica e cinema, ne parliamo con Mario Corvini, che dirige la New Talents Jazz Orchestra e che sarà in concerto domenica al Teatro Palladium qui a Roma. Mario, intanto benvenuto a Radio Onda Rossa. Grazie grazie a tutti e bene, sono qui, eccomi. Sono stato al secondo appuntamento di questi quattro in programma. I grandi del jazz raccontati dal cinema. Esatto, e devo dire una bella esperienza. Io ho contato 17 elementi, non so se era nella formazione classica e ideale questa, nella performance che ho avuto modo di sentire e vedere quella domenica. Sì, la formazione è questa, okay. È classica, sono quattro trombe, quattro tromboni, cinque sassofoni più chitarra, contrabbasso, batteria e pianoforte, più me come direttore. Sono 17 giovani musicisti bravissimi e io come appunto come direttore. Ci racconti un po' come è nato questo progetto? Guarda, il progetto, innanzitutto ti voglio ringraziare per questa tua veramente grandissima cortesia, perché noi abbiamo bisogno di questa diffusione un po' generale, insomma, sì, ecco, perché sì. Abbiamo questo progetto, tra l'altro molto coraggioso, un progetto ideato da me e Maurizio Miotti, che sarebbe il coautore appunto di questa mini rassegna, che vede il legame tra il cinema e la musica jazz, nella sua storia del cinema, che ha abbracciato tantissime pellicole in cui c'erano anche importanti colonne sonore jazzistiche, ecco. Noi ripercorriamo un po' questa cosa qui e la riproponiamo per il pubblico live con un bello schermo sopra, grande quanto il boccascena del Palladium, che è un teatro favoloso e niente, è affascinante come cosa, insomma, ecco. Senti, l'orchestra era già esistente o è una creatura nata proprio in base a questo progetto? L'orchestra l'ho messa su nell'ottobre del 2012, sì. E è nato come progetto didattico fondamentalmente, perché i ragazzi oggi come oggi non hanno purtroppo molta possibilità di fare pratica per big band, a parte i conservatori, sì, sì. Ma che anche i conservatori non è che sono muniti tantissimo di orchestre proprio stabili, per cui ho fatto questo orchestra laboratorio, che poi a dire la verità dopo qualche mese hanno mostrato già un grandissimo valore, e quindi ho detto ma perché no, cominciamo a fare un po' di attività di concertistica e poi questa è una logica conseguenza di quello che abbiamo fatto, diciamo, da ottobre 2012, anche perché sono molto giovani, l'orchestra è giovane, comunque ha 4 anni e abbiamo fatto una buona attività concertistica, discografica, abbiamo fatto un CD con la Parco della Musica Records dal titolo Extempora con Daniele Tittarelli, insomma siamo attivi su quel fronte, ecco. Senti, la scelta dello spazio, il Palladium? Allora, io il Palladium me lo ricordo perché io ho quasi 50 anni e nei fine anni 80 appunto era riuscito fuori questo Palladium, che era un cinema, sì. Dessai, no? Sì. Del quartiere, insomma, sì. Di Garbatella, ed è stato rimesso a punto dall'Università di Roma 3. Sì. Mi è capitato di fare un concerto con la jazz band di Roma 3, sono entrato dentro e ho detto questo è fantastico, sarebbe al caso proprio in maniera, calzerebbe come un guanto per la New Talent Jazz Orchestra, a che ho sentito il professore Luca Versano, che è il responsabile, appunto professore dell'Università di Roma 3 di musicologia, e gli abbiamo proposto questa rassegna che è all'interno dei programmi, diciamo, riguardanti il dance, cioè Roma 3, perciò il cinema, e abbiamo creato questo connubio tra la nostra musica e le materie riguardanti il dance, ecco. Mm-hmm. Questo. Senti, e come sono usciti fuori questi quattro appuntamenti tematici? Beh, qui anche grazie a Maurizio Miotti, che ha lanciato un'idea illuminante, perché Allora, il jazz, come lo può, una big band come si può contestualizzare all'interno di un, in un ambito cinematografico? Solamente associando alcuni generi, alcuni film che abbiamo ritenuto valido per come riferimento, come ispirazione, fonte di ispirazione per il jazz. Quindi dal noir ai grandi classici, ai grandi autori che hanno musicato le pellicole di tipo Otto Preminger con Anatomia di un delitto con Duke Ellington, o il cinema noir come Ascensore per il patibolo di Miles Davis, o tante altre cose, Days on Wine and Roses con musiche di Henry Mancini, insomma, e di materiale ce n'era tantissimo. Ma che abbiamo detto, vabbè, proviamo a fare questa cosa qui, e niente, sta andando veramente veramente bene. Senti, ci sono dei riferimenti web, una pagina Facebook, un sito internet? Allora, noi abbiamo una pagina YouTube, un canale, anzi canale YouTube, dentro quale c'è un grande bacino di video. Abbiamo caricato alcune tracce, appunto alcuni video dai primi due concerti, cioè del 9 ottobre e del 13 novembre, e piano piano stiamo mettendo roba, e comunque là c'è anche roba che abbiamo cominciato dai tempi del 2013, insomma, perciò lì c'è un po' tutto il nostro materiale, insomma, chi volesse. Senti Mario, possiamo anticipare il fatto che una delle prossime puntate di Tracce di Cinema con Ottavia Monicelli sarà dedicata al rapporto tra il jazz e la commedia all'italiana, e quindi ci sarai tu ospite con noi qui in studio, e proporremo delle tracce registrate in quella serata inaugurale di questa rassegna di quattro puntate? Assolutamente sì, ho già selezionato alcune cose. Che bello. Sì, con molto piacere. Mi piacerebbe conoscere di persona la figlia del grande Mario Monicelli, quindi per me sarebbe un onore immenso. E allora la cosa più facile è che tu venga qui in studio, insomma, in quell'occasione. Comunque venite tutti quanti domenica, certo, 4 dicembre, dopo aver votato naturalmente, e dopo il derby, perché c'è anche c'è il derby alle 15, e allora poi il quartiere Garbatella è tipicamente giallo rosso, quindi bisogna vedere un po' l'umore del pubblico arrivato a quel punto. Senti, ricordiamo l'orario? Alle 18 il 4 dicembre, il jazz e il cinema noir per la rassegna Il jazz dal cinema e New Talent Jazz Orchestra, ingresso 15 euro, ridotto 10 euro per over 65 e studenti, e quindi niente, mi auguro di vederti ancora in teatro e vedervi tutti quanti, insomma. Senti, già che ci siamo, a questo punto lanciamo anche l'appuntamento del quarto appuntamento, che sarà più in là. Il 15 gennaio, sempre alle 18, sempre di domenica, Hollywood e i grandi del jazz, in cui si celebra Smile da tempi moderni, il Mago di Oz, insomma, Days on Wine and Roses, My Favorite Things, insomma, non voglio dire altro, ma c'è veramente tante, tante belle cose, insomma. Senti, qualche anticipazione invece sulla giornata di domenica? Faremo un esperimento piuttosto inusuale, faremo la conduction, che sarebbe questa la direzione compositiva, chiamiamo, sì, è una forma gestuale, praticamente da cui si trae una composizione, appunto, estemporanea mediante gestualità, indicando le tonalità e improvvisando estemporaneamente su un video, e il video sarà Ascensore per il patibolo, e quindi sarà un esperimento piuttosto azzardato e il pubblico sarà testimone di questa cosa. Benissimo, allora speriamo a presto anche su queste frequenze. Mario, un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie a te e buon lavoro, buonasera a tutti, ci vediamo il 4 dicembre alle ore 18 al Teatro Palladium. Ciao, a presto Mario. Buona serata, grazie, ciao.